Buongiorno. Come stiamo? Ci facciamo un bel sorriso stamattina? Ah, bellissimi. Fate vedere i vostri denti. Vi siete ricordati di lavarli stamattina? C'è chi non ce li ha, c'è chi ha una dentiera. C'è chi deve andare dal dentista. Facciamo vedere il nostro bel sorriso a chi ci sta a fianco. Fallo vedere. Girati, fai un bel sorriso. Fai vedere tutti i tuoi denti. Stamattina sono stato accolto in questa sala da almeno il più bel sorriso che ho visto stamattina è stato quello di Grace. Stamattina la bambina che abbracciava la sua amichetta e sorrideva, ha un sorriso quella bambina, straordinario, straordinario. Dio mette in gioia nei nostri cuori. Noi abbiamo motivo di gioire. Non far vincere il diavolo nel tuo essere appesantito, oscurito, depresso, triste, perché questo non ti appartiene, te lo puoi scrollare di dosso con un sorriso, ricordando a te stesso: io faccio parte del regno della gioia. Il regno di Dio è un regno di gioia. Se non vivi gioia è perché forse il maligno sta cercando di derubarti quella gioia, quindi sei nel posto giusto, al momento giusto, stamattina, per riconquistare quello che ci appartiene. E una cosa che ci appartiene è la gioia. Siamo d'accordo? Siamo contenti? Tutti anche su in regia, siete contenti? Solo Davide è contento. Regia, fatevi sentire. Sì, sì, sì. Che sì gioioso, fatemi sentire un sì gioioso, regia. Ah, bene, bene. che gioia appartenere a Dio, che gioia avere esperienze come quella della scorsa settimana, vero? Quanti erano a Ecclesia la scorsa settimana? Credo la maggior parte di noi, sì, vedo che almeno il 90% di noi c'era. Che gioia appartenere a questo popolo meraviglioso, il popolo di Dio. Che gioia sentire un ministro quale Mike Pilavaci ministrarci una parola che ha portato trasformazione e liberazione. Quanti possono dire io ho avuto liberazione la scorsa settimana? Posso vedere la tua mano? Che bello. Quanti possono invece dire ho avuto una nuova rivelazione di Dio? Dio si è mostrato in una maniera nuova. Quanti hanno avuto una parola profetica la scorsa settimana, specifica per loro? Che bello, vedete, Dio parla. Dio agisce, Dio si muove, lo fa attraverso i suoi servi, lo fa in tutto il mondo e lo fa attraverso persone che si predispongono a servirlo. Dio si è servito grandemente di Mike Pilavaci, siamo grati a Dio per lui e siamo grati a Dio di far parte di questo popolo. Quando vedo uomini come Mike Pilavaci mi ricordo che tutto questo, questa connessione è possibile solo perché abbiamo in comune lo Spirito Santo. Siete d'accordo con me? È straordinario per me viaggiare, andare in altre parti d'Italia, a volte altre parti del mondo, e scoprire che ci sono persone con le quali connetti in una maniera così intima e profonda che non riesci a spiegarti, perché sono di una cultura diversa, vengono da storie diverse, hanno un modo di parlare e di agire diverso. Mike è molto diverso da ciascuno di noi, non parla italiano, parla inglese, eppure quanti hanno sentito questa connessione con lui? E questa connessione dipende da quello spirito che abbiamo in comune, lo Spirito Santo che ci unisce. E anche stamattina, se c'è qualcosa che ci unisce, è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio, è Lui che mette unità in noi. Amen? Siete d'accordo con me? E siamo uniti anche ai mottolesi. I mottolesi sono molto diversi da noi. Baresi e mottolesi sono diversi, ma siamo connessi da un amore comune e dallo Spirito Santo. E questo è meraviglioso. Io stamattina voglio parlarvi della cultura del regno. Vi piace? Voglio parlarvi oggi della cultura del regno, e sarà un'introduzione, e lo faremo per le prossime 3 settimane. Per altre 3 settimane, come ha detto Antonio, giustamente, parlerò, voi ascolterete. Parlerò, voi ascolterete e approfondiremo insieme la tematica della cultura del regno. cultura del regno. Che cos'è la cultura del regno? Nella Bibbia non troviamo questa terminologia. Non è che tu apri una pagina della Bibbia e trovi la terminologia cultura del regno, però definisce qualcosa che è abbondantemente descritto nella parola di Dio, nella Bibbia. Quando parliamo di cultura, di che cosa stiamo parlando? La cultura è l'insieme di valori di credenze, no? Di convinzioni, se vogliamo, è l'insieme di valori, credenze e di comportamenti che caratterizzano un gruppo sociale. Questa è la definizione per eccellenza che ho trovato, sintetica, breve e credo abbastanza esplicativa, vero? Lo capite, no? La cultura è quella cosa che contraddistingue un certo gruppo di persone, perché questo certo gruppo di persone ha dei valori in comune, ha delle convinzioni in comune, ha delle tradizioni in comune, ha dei modi di comportarsi in comune. Noi italiani abbiamo una nostra cultura, vero? Ed è molto evidente la cultura italiana. Parliamo di cibo, no? Se parli di cibo, lì puoi capire che noi italiani ci distinguiamo da ogni altra cultura sulla faccia della terra. La scorsa settimana ero con Antonio e Sara, due calabresi di Catanzaro. Non so quanti conoscono Antonio e Sara, sono responsabili dei Jesus Revolution, sono della Calabria, questa regione meravigliosa d'Italia, una delle più belle regioni, più ricche regioni e con grandi tradizioni, soprattutto in termini di cucina. Amen? Siamo d'accordo che la Calabria ci piace? In modo particolare Luciano è d'accordo, sua madre è d'accordo, ma siamo tutti convinti che la Calabria è un bel posto. E questa coppia, Antonio e Sara, mi raccontavano di aver ospitato una coppia di finlandesi in casa loro. E questi finlandesi, il Signore li benedica, in casa loro hanno cominciato a parlare della cucina italiana, del valore che diamo alla cucina noi italiani. E dicevano, si esprimevano in questa maniera: voi italiani siete esagerati, voi spendete troppo tempo in cucina, voi sprecate così il vostro tempo. Noi finlandesi, cercava di vendere a due calabresi, pensate un po', questi due finlandesi volevano convincere due calabresi che i finlandesi sono più saggi quando si parla di cucina. E dicevano: noi finlandesi siamo più saggi perché noi non sprechiamo tutto questo tempo in cucina, noi non sprechiamo il nostro tempo a rendere i cibi più gustosi, perché il cibo in Finlandia serve solo per nutrire il corpo e quindi noi ci preoccupiamo solo di mangiare bene e mangiare sano. Vogliamo pregare per la Finlandia, che dite? Stamattina ho messo la busta nel mio ufficio. La Finlandia è esattamente in quella direzione. Io inviterei ciascuno di noi a stendere le proprie mani e vogliamo benedire i finlandesi in questo momento. Che cosa si stanno perdendo? Però pensateci un po', questo è qualcosa che contraddistingue la nostra cultura, il cibo. Noi per ogni festa mangiamo. Matrimonio si mangia. Anniversario di matrimonio, si mangia. Compleanno, si mangia. A Natale, si mangia. A Capodanno, si mangia. Se è importante poi la festa, non si mangia il giorno solo della festa. C'è pure la vigilia della festa che si mangia, no? La vigilia di Natale si mangia per prepararci poi a mangiare i resti a Natale, più sovrabbondare di altro cibo nel giorno di Natale. Si mangia la vigilia di Capodanno e poi a Capodanno si mangia a Pasqua, ma si mangia anche a Pasquetta, no? La cultura varese vuole che a Pasquetta tu non rimani in casa, vai in campagna. E che cosa andiamo a fare in campagna? Non come i finlandesi, a fare passeggiate, a correre, ad andare in bicicletta. Niente di salutare, a noi piace mangiare anche in campagna. E quindi allestiamo la nostra cucina in campagna, il nostro soggiorno in campagna. Noi portiamo teglie, noi portiamo di tutto, scandalizzando ogni altra cultura del mondo. E a noi piace così, amen? Ci piace? Allora di un amen convinto a questo. Amen, che bello essere italiani e che bello essere baresi. La cultura definisce come ci comportiamo, come parliamo. No, gli italiani quando sono a pranzo, rimaniamo in tema di cucina, e finisci il tuo piatto, in Italia si dice ne vuoi ancora? La cultura barese ci porta a rispondere vuoi ai malati, si dice. Perché? Che cosa significa questa frase per chi ci ascolta e non è barese? Significa che non c'è ragione di chiederlo. Tu metti, vai tranquillo, perché non sono malato, sono in salute e continuerò a mangiare. La cultura definisce il nostro linguaggio, il nostro comportamento, la cultura è ciò che noi crediamo, ciò per cui viviamo. Il calcio è qualcosa che ci definisce. Noi guardiamo una partita per 90 minuti e poi ne parliamo per 9 giorni. È vero? Questa è la cultura italiana. Se tu vai a un parrucchiere, gli uomini in Italia, l'unico tema che si tratta non sono i capelli, la tinta, lo shampoo idoneo, il gel. C'è qualche parrucchiere in mezzo a noi. Si parla di calcio. Si parla di calcio. Poverini loro che per 8 ore, 9 ore al giorno non fanno altro che parlare di calcio. Tu ti siedi lì e chiedi un taglio di capelli, ma perché si parla così tanto di calcio? Tu ne esci fuori con tutt'altro taglio di capelli, perché magari il parrucchiere in quel momento stava pensando a Balotelli e quindi ti ha fatto il taglio alla Balotelli. Siamo così impregnati di culture, a volte non ce ne rendiamo conto. Ora, che cos'è la cultura del regno? La cultura del regno sono appunto i valori, il linguaggio, il comportamento che hanno i figli di Dio, i figli del regno di Dio. Qualche giorno fa, come squadra pastorale, eravamo riuniti e ci siamo fatti tante domande, abbiamo parlato di tante cose. E una cosa mi ha incuriosito del discorso che noi facevamo. Ci siamo chiesti che cos'è che definisce la nostra Chiesa. Qual è l'identità? Quali sono i valori? Quali sono gli aspetti che ci contraddistinguono come Chiesa? Ed è lì che ancora di più ho avuto nel cuore di condividere con voi questo messaggio e farlo per le prossime domeniche. Perché noi dobbiamo riconoscere qual è la nostra cultura. È importante che noi riconosciamo quali sono i nostri valori fondamentali. È importante che noi scopriamo insieme, alla luce della parola, quali sono i comportamenti che il Signore vuole che noi viviamo giornalmente, che ricerchiamo nella nostra vita. Quindi la cultura della nostra Chiesa è la cultura del regno. Perché parliamo di regno? Perché il regno è ciò che definisce ciascuno di noi. Noi non apparteniamo alla Chiesa pieno Vangelo come se fosse qualcosa di a sé stante, chiuso, confinato. Noi apparteniamo al regno di Dio. Noi apparteniamo al regno di Cristo Gesù. E cos'è il regno di Dio? Ricordiamocelo un attimo. Il regno di Dio è ciò che definisce il dominio particolare di Dio dove la sua potenza è manifestata, la sua autorità è esercitata. Ricordiamoci che Dio ha autorità su tutto. Non c'è una parte che non è sotto l'autorità di Dio. Non c'è una parte che non è sotto il suo dominio. Dio regna ed è sovrano ed è in autorità anche sul diavolo e sui demoni. Amen. Siamo d'accordo su questo. Ma diavolo e demoni non sono il regno di Dio. Ciò che viene definito quale regno di Dio è quel contesto del suo dominio dove la sua presenza, la sua potenza è manifestata, dove la sua volontà è riconosciuta e dove lui opera liberazione, guarigione e salvezza. Questo regno è un regno in continua espansione, è un regno che continua a crescere e include tutti gli uomini che vengono da Lui liberati, da Cristo Gesù liberati, dalle tenebre e che appartengono a Lui e sono a Lui sottomessi. Proprio stamattina leggevo che il regno di Dio sta avanzando straordinariamente nella nazione dell'Iran. Ci credete? È straordinario, una nazione così chiusa, musulmana, religiosa, dove non si possono fare evangelizzazioni in piazza, dove non si può avere un incontro come lo stiamo avendo noi qui, libero, il regno di Dio avanza e migliaia di persone vengono a conversione, al punto tale che quando fanno i battesimi loro, di questi tempi, in questi mesi, fanno battesimi di massa. Entrano in centinaia nel fiume e vengono battezzati. Perché? Perché il regno di Dio avanza e non c'è nessuno che lo può fermare. E il regno di Dio avanza per la potenza del suo Spirito che agisce in ogni parte del mondo. Amen. Noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo e noi crediamo che il suo regno sta avanzando e che Lui ha conquistato ciascuno di noi. Leggiamo un passo in Matteo 12, 22, 30, capiamo meglio che cos'è il regno di Dio. Questa è una storia molto, molto bella, la storia di una liberazione e guarigione al tempo stesso. Leggiamo in Matteo 12, 22, che gli fu presentato un indemoniato, fu presentato a Cristo un indemoniato, un indemoniato che era cieco e muto. Ed egli lo guarì. Meraviglioso, no? La parola di Dio è meravigliosa, sintetica e diretta. Egli lo guarì. Un indemoniato fu presentato a Cristo, era cieco, era muto, e Gesù che fa? Lo guarì, lo libera. In modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva, e diceva, non è questi il figlio di Davide? Non è questi colui che stiamo aspettando? Non è questi la persona che cambierà la storia della nostra nazione, del nostro popolo e del mondo intero? Non è questi la persona per la quale abbiamo letto e ascoltato tante profezie? Non è questi il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ascoltate ora. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Il regno di Dio giunge mediante l'aiuto dello Spirito di Dio, mediante l'intervento dello Spirito di Dio, mediante la potenza dello Spirito Santo di Dio. Amen. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Che storiella strana, vero, che abbina Gesù? Gesù sta dicendo che il regno di Dio e la venuta del regno di Dio è l'immagine di un uomo forte che viene legato, di un uomo forte che viene derubato di quello che gli apparteneva, dell'uomo forte al quale vengono strappati dei beni. Gesù dice il regno di Dio è quella manifestazione dell'intervento di Dio che si riappropria di ciò che gli appartiene. È bellissima, no? Come immagine. Dio viene per riprendersi ciò che è suo e per farlo che fa? Lega l'uomo forte. Chi è l'uomo forte? È Satana. Chi è l'uomo forte? Il regno delle tenebre. Chi è l'uomo forte? I demoni. Gesù viene per legare, Gesù viene per bloccare l'opera malefica, Gesù viene per intervenire e bloccare quello che è l'opera delle tenebre nella nostra vita e riprendersi ciò che gli appartiene, per dare a ciò che gli appartiene libertà e vita nuova. Amen. Questo è quello che io vivo, questo è quello che tu vivi, questo è ciò che ci definisce. Noi siamo liberi e siamo liberi perché Gesù è venuto a riprendersi ciò che è suo legando il maligno. Vedete cosa dice Colossesi 1, versetto 13? Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ci sono solo due condizioni che ogni uomo su questa terra può vivere: o sotto il dominio del regno delle tenebre o sotto il dominio del regno di Dio. Tu puoi essere o schiavo dei tuoi peccati, delle bugie del maligno, oppure puoi essere libero nella verità che ci rende libero, sotto il dominio e l'autorità salvifica di Cristo Gesù. È questo ciò che celebriamo stamattina. Se stamattina siamo riuniti qua e cantiamo, se stamattina siamo qui riuniti per mangiare del pane e bere del vino, è perché ricordiamo l'atto che ha permesso a ciascuno di noi di essere liberati dal dominio di Satana e trasportati dal potere delle tenebre al regno di Dio. Noi abbiamo vissuto una trasportazione e questa trasportazione non è derivata da un tuo sforzo. Questo cambiamento di condizione dal regno delle tenebre al regno della luce, al regno di Dio, non è qualcosa che conquisti con i tuoi sforzi. Non è qualcosa che tu conquisti con le tue buone opere, non è qualcosa che tu conquisti dedicandoti a determinate discipline. No, queste cose sono, questo miracolo, questo trasporto è avvenuto mediante il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Se oggi non riconosci di essere nel regno della luce, se oggi riconosci di non essere sotto il regno di Dio, nella sua autorità, nella sua guida, nella sua libertà, nella sua verità, oggi puoi dare diritto a Cristo di intervenire nella tua vita e la potenza dello Spirito Santo vuole liberarti dalla tua condizione e portarti dalle tenebre alla luce. Non è una meravigliosa notizia questa? Questo è l'Evangelo, questa è la più bella notizia che il mondo possa mai ascoltare. È la notizia per la quale noi viviamo e moriamo. Questa è la notizia per la quale noi gioiamo e andiamo avanti anche nelle lotte e nei continui tentativi dell'uomo forte di riprendersi ciò che non gli appartiene. Noi continuiamo a lottare nel nome di Cristo Gesù perché apparteniamo al suo regno. E oggi celebriamo la vittoria che è stata determinata dal suo sacrificio. Gesù non ha conquistato la nostra libertà e non si è preso dominio del suo regno attraverso un atto di violenza e di guerra. C'è un capitolo molto triste della storia del cristianesimo. Non so se la conoscete, è la storia delle crociate. A un certo punto nel mondo cristiano si è pensato che dovevamo necessariamente riprenderci i territori che appartenevano al cristianesimo e farlo con la forza. Si sono usate delle spade in nome di Dio. Questi guerrieri che erano appunto i crociati avevano delle divise con una croce sopra. E in nome di Gesù ammazzavano persone, ammazzavano popoli per riprendersi territori. Sapete cosa è successo in quel periodo storico? Hanno perso di vista il regno di Dio per come cresce, avanza e sussiste. Il regno di Dio è un regno di amore. Il regno di Dio avanza per gesti d'amore. Il regno di Dio non avanza per guerre. Il regno di Dio non avanza per costrizioni. Noi non possiamo costringere nessuno a scegliere per Cristo. Il regno di Dio non avanza per atti di guerra e di sovversione. Il regno di Dio avanza mediante l'amore. E Gesù ha conquistato i nostri cuori con l'atto d'amore più grande della storia del mondo. Lui è morto per te. È entrato a Gerusalemme e tutti lo osannavano. Buttavano a terra dei mantelli e lo hanno fatto entrare nella città in una maniera trionfante. Sapete perché? Perché il popolo di Israele credeva che Gesù avrebbe preso un'autorità e un governo politico sulla nazione, che sarebbe stato incoronato re come ogni altro re, che avrebbe preso autorità e si sarebbe formato il suo esercito. I suoi discepoli si vedevano già parte di questo esercito, si credevano dei generali in guerra. E Gesù ha smentito tutto questo e ha scioccato l'intera umanità, perché al posto di indossare una corona d'oro ha indossato una corona di spine. E al posto di salire su un trono con uno scettro, è salito su una croce sofferente ed è morto. È così che Gesù ha conquistato la mia vita, ed è così che ha conquistato la tua vita. Ed è con l'amore che lui avanza. Nelle prossime settimane parleremo della cultura del regno. Ma io voglio sottolineare il fatto che se andremo a studiare la cultura del regno, non è perché conoscendola potremo viverla meglio. Non andremo a studiare gli aspetti della cultura del regno, almeno alcuni aspetti fondamentali della cultura del regno, perché se ci impegniamo possiamo viverla, vivere questi comportamenti, questi valori nuovi, questo nuovo modo di pensare. È come sforzarci di andare in Finlandia e diventare finlandesi. Che nessuno diventi finlandese. Essere parte del regno di Dio e vivere la cultura del regno di Dio dipende da una trasformazione che avviene interiormente, non esteriormente. È una trasformazione che parte dal cuore e trasforma le nostre parole. Parte dal cuore e trasforma i nostri comportamenti. Parte dal cuore e trasforma le nostre convinzioni, le nostre percezioni, come viviamo il prossimo e come ci relazioniamo agli altri. È qualcosa che parte dal cuore. Se tu desideri vivere il regno di Dio e vivere la pienezza della cultura del regno di Dio, il che è un privilegio, vivere la cultura di amore, vivere la cultura della generosità, vivere la cultura di un linguaggio profetico, di un linguaggio miracoloso, vivere la cultura di un rapportarti agli altri in una maniera nuova, non avviene perché vieni qui la domenica, ascolti un messaggio e poi cerchi di emularlo nella vita di ogni giorno. No, l'unica maniera attraverso la quale noi viviamo la cultura del regno di Dio è avendo intimità con lo Spirito Santo. E ricercando la potenza dello Spirito Santo nei nostri cuori e arrendendo la nostra vita a Cristo, autorità suprema su ciascuno di noi, riconoscendolo re e dandogli il diritto e l'autorità di dominare su di noi, guidarci, proteggerci e determinare le nostre giornate. Quindi noi andremo a scoprire tutte queste cose insieme per conoscere meglio la cultura del regno, per ricercare di più la cultura del regno e poi per promuovere la cultura del regno. Ma prima di farlo e prima che voi veniate domenica prossima, io vorrei che noi comprendiamo che il bisogno che abbiamo è la ricerca dell'intimità con lo Spirito Santo. Mike Pilavacci la scorsa settimana ha parlato del fatto che dobbiamo essere un popolo della presenza, un popolo che ricerca la presenza di Dio. Tante persone possono essere altruiste nel comportamento, parlare un linguaggio che è simile al linguaggio di coloro che vivono la cultura del regno, ma un conto è viverlo esteriormente, come sforzo esteriore di opere buone, di un comportamento sano, civile e morale. Un altro conto è essere trasformati da dentro e rappresentare il regno di Dio in questa terra, permettendo che esso si espanda, perché lo Spirito Santo dimora in te. Questa è la volontà di Cristo per ciascuno di noi. Gesù vuole che tu vivi il regno di Dio e il privilegio della cultura del regno di Dio, e per farlo hai bisogno dello Spirito Santo. Amen. Ed è per questo che io voglio che stamattina, partecipando alla cena del Signore, ricordandoci quello che Gesù ha fatto per noi, possiamo spendere un tempo nel quale ricerchiamo lo Spirito Santo nelle nostre vite. Abbiamo intimità con lo Spirito Santo. Ricerchiamo la sua presenza in noi. E questo lo fai nel momento in cui, se sei battezzato nello Spirito Santo, cominci ad esprimerti in nuove lingue. Ricerchi la sua presenza, lo inviti a invadere ogni pensiero e ogni area della tua vita. E se non lo hai, se non hai il battesimo nello Spirito Santo, lo chiedi. La parola di Dio parla del fatto che lo Spirito Santo è qualcosa che noi riceviamo attraverso la preghiera, attraverso il desiderio e la fame di riceverlo, e lo si riceve attraverso la preghiera, in modo più specifico attraverso l'imposizione delle mani di ministri che pregano per noi. Quindi stamattina quello che io vorrei fare è vivere un tempo con voi nel quale partecipiamo sia alla cena del Signore, ma ci diamo occasione di pregare gli uni per gli altri. E noi come ministri, la squadra pastorale vorrà pregare per te. Noi vogliamo pregare affinché tu possa essere riempito di Spirito Santo, forse per la prima volta, o forse per una nuova fresca, per un nuovo fresco riempimento dello Spirito Santo. Vogliamo pregare per te affinché ogni area della tua vita sia illuminata. Vogliamo pregare affinché ci sia liberazione nella tua vita. Vogliamo pregare affinché ci siano guarigioni nel fisico, nel corpo, nella tua vita. Perché Dio è vero. E il suo regno è reale in mezzo a noi. Amen, ci crediamo. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo passare qualche istante in preghiera. Voglio chiedere a te, se hai libertà di farlo, di alzare le tue mani dove ti trovi, chiudere i tuoi occhi. E vogliamo invitare lo Spirito Santo in questo luogo. Vogliamo pregare che Lui operi questa mattina. Che questa mattina ci siano liberazioni, che questa mattina ci siano guarigioni, che questa mattina ci sia salvezza. Alleluia. Spirito Santo, ti invitiamo in questo luogo. Spirito Santo, ti invitiamo nelle nostre vite. Spirito Santo, vogliamo la tua potenza in noi.